Linee d'ombra di Matteo Caccia. Quando sono uscito c'era questo cielo blu cobalto, sembrava fatto di ceramica. Siamo rimasti completamente inebetiti di fronte a questa cosa qui. Tu non hai idea di che cosa c'è fuori, mi dice facendo capolino all'interno della tenda. Niente vento, solo luce. Esco anch'io ancora tremante. Storie di un risveglio in montagna e di un portiere molto fortunato in una puntata che si intitola Epifanie. Sotto l'egida della Royal Geographic Society e del Club Alpino Britannico, nel marzo del 24, 200 portatori e 10 alpinisti si avvicinano al versante tibetano dell'Everest. Al comando c'è il tenente colonnello Norton, mentre l'anima della spedizione è George Light Mallory, uno dei più forti alpinisti dell'epoca. Alla spedizione partecipa anche il 22enne Andre Irwin, un ragazzo con pochissima esperienza ma con grande entusiasmo. Dopo un avvicinamento non certo facile, finalmente giungono sul ghiacciaio di Rombuk, dove a 5.000 metri montano il campo base. Sono esausti. La lunga permanenza così in alto, con materiali primitivi e soprattutto senza ossigeno, non gli permette di salire di più. Prima di dichiararsi sconfitti, si organizza un ultimo tentativo. Saranno Mallory ed Irwin a tentare la vetta. All'incirca a metà degli anni Ottanta, Reinhold Messner, di cui avete chiaramente riconosciuto la voce, immagino, se siete soliti o se l'avete ascoltato almeno una volta nella vita, vi dicevo, Reinhold Messner, uno dei più grandi alpinisti, forse il più grande alpinista italiano di cui si abbia memoria, Reinhold Messner fece un programma che andò in onda per la RAI, che si intitolava In nome della montagna. Ecco, è tratto da lì questo estratto che vi abbiamo fatto ascoltare in questa terza puntata della seconda stagione di Linee d'ombra, che si intitola Epifanie. Vi abbiamo fatto ascoltare questo pezzo di Reinhold Messner perché si parla di montagna nella prima parte del nostro programma di oggi. Ma se ascoltate Linee d'ombra sapete che quando parliamo di un tema, quando c'è una storia che parla di qualcosa di specifico, in realtà non la usiamo anche soprattutto per parlare d'altro, perché è vero che si parla di una scalata sulle vette. Oggi c'è una storia che parla proprio di una scalata sulle vette più alte del pianeta, ma di solito lo usiamo per parlare d'altro. In questo caso parliamo di epifanie, anche se questa storia ci racconta benissimo dove sta la linea d'ombra del protagonista di oggi, che appunto ci dice che Massimo, appunto, che probabilmente delle volte, soprattutto in montagna, basta pochissimo per fare un errore e per pagarlo. Da altre volte invece va proprio con un colpo di fortuna, come nel suo caso, per poter vedere delle cose che non si vedranno mai più nella propria vita. Ecco, Linee d'ombra parla di questo, parla di storie che hanno un piccolo o un grande confine nel mezzo, che traccia un varco oltre il quale in qualche modo noi siamo passati all'interno della nostra vita. Ci arrivano storie di ogni tipo, che vi raccontiamo, storie di ogni tipo, storie di crescita, storie di formazione, storie di viaggi che hanno cambiato la nostra vita, storie di incontri che in qualche modo l'hanno segnata, quindi storie d'amore, storie di infanzia. Ci sono tantissime storie di infanzia che arrivano qui a Linee d'ombra. Le storie alla fine fanno sempre lo stesso mestiere, che è un mestiere semplicissimo: ci indicano la strada che qualcuno ha percorso nella sua vita, che non è per forza la nostra, però ci dice che qualcuno, quando gli è successa quella cosa, quando ha compiuto quegli anni, quando ha incontrato l'amore della sua vita, quando è stato licenziato e bla bla bla, i milioni di casi, di eventualità che possono succedere nella vita di ognuno di noi, ebbene, quella storia ci dice che quella persona l'ha affrontato in quel modo lì. Non è per forza il modo giusto, però ci dà una possibilità, ci dà un piccolo squarcio di realtà. Ecco, noi lo facciamo a Linee d'ombra attraverso queste storie, attraverso le storie di confine. E alla fine, quando noi abbiamo sentito la storia di qualcuno, quando qualcuno ha condiviso un pezzo della sua vita, come accadrà oggi per Massimo, oltre a conoscere qualcosa di lui, che è una persona che fa un lavoro molto particolare in un angolo remoto del pianeta e ha un'amicizia di lunghissimo corso con un amico con cui va appunto in montagna, questo è quasi incidentale, ci dice molto di più la sua storia, ci dice che la vita può essere vissuta in milioni di modi diversi e, se viene fatto in maniera lecito, ogni modo in cui viviamo la nostra vita ha diritto di cittadinanza. Ecco, questo credo che sia il compito migliore che svolge la narrazione di storie, e noi speriamo di compierlo nel modo possibile. qui a Linea d'Ombra. E ora basta con le pippe, possiamo benissimo cominciare a raccontare le nostre storie di oggi. La puntata si intitola Epifanie e alla fine avremo come al solito la nostra storia seriale che ci racconta la storia di un uomo che ha fatto una scelta molto particolare nella sua vita e purtroppo anche molto spiacevole. Mettetevi comodi, noi cominciamo. Benvenuti a Linea d'Ombra. Fu così che riempimmo il nostro Range Rover con l'attrezzatura e l'equipaggiamento per l'ultima tappa del nostro tour del Karakoram pakistano. Dopo i campi base del Nanga Parbat e del Rakaposhi, rispettivamente la nona e la 27esima montagna più alte del mondo, io e Stefano eravamo diretti a Rush Lake, il lago più alto del Pakistan, a quota 4700 metri, e da là, se tutto andava bene, al Rush Peak, poco più sopra, a 5100. Come dire, 300 metri sopra la cima del Monte Bianco. Era l'estate del 2019 e io e Stefano, amico talmente tanto d'infanzia che non ci ricordiamo nemmeno quando ci siamo visti per la prima volta, ci eravamo incontrati all'aeroporto di Islamabad 11 giorni prima, lui proveniente dalla Malpensa e io da Karachi, dove vivo e lavoro da 3 anni, insegnando scienze politiche in un'università della megalopoli pakistana. In qualche modo, un'avventura come quella ce la dovevamo. Giusto 10 anni prima, nel 2009, avevamo scalato insieme il Gran Paradiso. Ora, vivendo io laggiù in Pakistan, era un'occasione che non si poteva perdere. A Karimabad, cittadina nel cuore dell'Unza, dove eravamo alloggiati, ci eravamo ritrovati solo il giorno prima, ad osservare la vallata dal forte che domina il piccolo paesino. Uno spettacolo inebriante, con il fiume che tagliava la valle con un canyon profondissimo, gli estesi frutteti verdissimi di noci e albicocchi nel fondovalle, e poi pareti brune e cupe che salivano fino agli oltre 4000 metri. La salita a Rush Lake comportava un tragitto in jeep di circa 10 km fino al piccolo paesino di Hoppar, con noi le nostre due guide. Nawaz e Israr. Arrivati a Hoppar, si preoccuparono di trovare 6 portatori per la nostra spedizione di 5 giorni, quindi vettovaglie, tende e cucina da campo. Dopodiché partimmo. Dopo aver abbandonato Hoppar, discendemmo una morena che conduceva ad un'enorme lingua di ghiaccio che dovevamo attraversare piano piano. Le nostre guide sapevano benissimo cosa fare, senza ramponi o attrezzatura specifica, come i nostri portatori che erano equipaggiati con scarpe da passeggio della domenica. Attraverso il ghiaccio, eccoci percorrere una valle lunghissima, un pascolo brullo che si addentrava verso i monti del Karakoram. Dopo circa 6 ore dalla partenza, eccoci in una meravigliosa radura con ruscelli e una capanna di un pastore che ci offre prontamente chai, l'immancabile tè speziato preparato nel latte e yogurt di capra. Ci accampammo per la sera. Il giorno dopo avremmo dovuto raggiungere un alpeggio più in alto, a circa 4000 metri, e poi da lì cercare di raggiungere il lago. È uno dei percorsi più noti in quella regione del Pakistan a nord, però di turisti ne abbiamo beccati pochissimi. Siamo stati in giro 15 giorni, abbiamo beccato 2 sloveni, una messicana e un olandese, basta, 4 turisti stranieri. Era anche, c'è da dire, la fine del Ramadan, per cui c'era pochissima gente in giro, per cui è stata molto in solitaria la cosa. La guida, Israr, ci mise in guardia. Era inizio giugno, probabilmente c'era ancora un sacco di neve oltre l'alpeggio e insomma non sapeva se si sarebbe riuscito a raggiungere il lago. La mattina seguente ci inerpicammo su un sentiero ripidissimo, arrivando su un crinale oltre 4000 metri. Il panorama si apriva maestoso su una serie di ghiacciai che solcavano il fondovalle. Discesi poco più in basso e trovando un altro alpeggio con annesso pastore, prendemmo il solito chai e confabulammo con Israr. Lui ci disse che faceva molto freddo, che era nevicato copiosamente nei giorni precedenti e che, insomma, la salita al lago era più no che sì. In condizioni normali erano altre 3 ore di salita, così non sapeva e non se la sentiva di dire sì, andiamo. Io sapevo che Stefano sarebbe salito anche in ciabatte, non voleva sentire ragioni. Io sono più per ascoltare la guida, ma appunto Stefano era arrivato dall'altra parte del mondo per vedere il lago. Va da Nawaz, cioè l'altra guida, più giovane, lo convince. Saliremo con Nawaz e i 3 portatori. Poi uno tornerà direttamente giù prima del pernottamento, altrimenti non ci staremmo nelle tende. Così, intorno all'1, lasciamo l'alpeggio e puntiamo a Rush Lake. Oh, I miss the comfort of this house. where we are, where we are, where we are, where we are. The floor under our feet whispers out, come on in, come on in, where it all begins. Can you check? In principio il sentiero non presenta grandi difficoltà, è un po' nuvoloso ma niente di che. Man mano che si sale, la neve non fa che aumentare. A un certo punto diventa tutto un camminare in un nevaio. La neve nel tardo pomeriggio si è fatta naturalmente più soffice ed è un grosso problema. Si sprofonda ripetutamente, passo dopo passo, fino al ginocchio, a volte fino all'anca, con il nostro peso gravato per di più dagli zaini che buca continuamente il sottile strato solido superficiale della neve. Diventa durissima avanzare in quelle condizioni. Stefano lancia alcune bestemmie violentissime a pieni polmoni. Meno male che i nostri portatori musulmani non capiscono l'italiano. Anziché in 3 ore, raggiungiamo la valle del Rush Lake dopo oltre 5 ore di marcia estenuante, stremati e senza vedere nulla. Le nuvole del pomeriggio hanno reso tutto lo spazio intorno a noi un grigio pesto e non si vede nulla oltre una decina di metri. Il vento inizia a sibilare. Sentiamo il freddo aumentare, arriva una tempesta. Il buio cala velocemente. Cominciamo subito a montare le tende, una per noi, una per Nawaz e i portatori, tra cui uno appunto si appresta a tornare giù. Il vento nel giro di qualche minuto cresce così tanto che dobbiamo lanciare gli zaini dentro la tenda per non farcela portare via. Picchettato il tutto, ci fiondiamo all'interno, sono 6:30. Poco dopo arriva Nawaz con del chai, ci dice di prepararci. La notte sarebbe stata molto dura. Domani, ad ogni modo, si torna giù il prima possibile, ci dice. Non abbiamo manco visto il lago, obiettiamo noi, ma senza troppa convinzione. Mangiamo qualcosa alla belle meglio e ci sistemiamo un po' all'interno della tenda, un po' di chiacchiere e poi ci buttiamo esausti a dormire. C'è stato un minimo di preoccupazione quando siamo arrivati su verso 6:30, si è alzato veramente un brutto tempo, ecco, nel senso che le tende stavano volando via, abbiamo lanciato dentro gli zaini per ancorarle. Poi niente, ci siamo fiondati dentro sta tenda sperando che il tempo in qualche modo migliorasse, o quello che speravamo è che fosse abbastanza decente per lasciarci scendere il giorno dopo, che non ci intrappolasse su in quota per qualche giorno, ecco. La notte fa un freddo glaciale, il vento sbatacchia le pareti della tenda, il mio sacco a pelo tiene fino a meno 12, sono vestito con la maglia di lana e il pile, eppure mi sveglio tremando ogni 20 minuti. Verso 4:30 chiedo a Stefano come sta, se la sta cavando molto meglio, con un sacco a pelo molto più pesante del mio, ma insomma fa un freddo spaventoso. Poco dopo, attorno alle 5, Stefano lascia la tenda adducendo molto prosaicamente bisogni imposticipabili. Ritorna dopo un quarto d'ora. Quando apre la cerniera della tenda vedo della luce intensa filtrare. Tu non hai idea di che cazzo c'è fuori, mi dice Stefano facendo capolino all'interno mentre tiratosi in piedi comincia a rollarsi una sigaretta. Niente vento, solo luce. Esco anch'io, sono ancora tremante. È difficile dire quello che ci troviamo davanti, o meglio, quello che ci troviamo tutto intorno. un altopiano coperto da una distesa di neve bianca e purissima, immacolata, che si apre un po' sotto di noi verso un lago che, coperto anch'esso, possiamo solo immaginare. Intorno, un teatro di cime oltre i 7000 metri che emergono da ogni punto all'orizzonte. Noi, già in altissimo, le vediamo emergere come bastioni e guglie gotiche coperte di ghiaccio. Sopra di noi, un cielo blu cobalto, intensissimo, inondato dalla luce tersa del mattino. Siamo euforici. Nawaz fa capolino della sua tenda. Stanno preparando il tè. Da lì a poco partiremo per il Rasht Peak. Solo un'ora di cammino più in alto, oltre i 5000 metri. Nel mentre, io e Stefano prendiamo un fornellino e cerchiamo di sgelare i nostri scarponi che nella notte sono diventati dei cubi di ghiaccio. Poco male. L'adrenalina è così tanta che arriviamo di slancio a Rasht Peak. Questa terza puntata di Linee d'Ombra, proprio della seconda stagione di Linee d'Ombra, si intitola Epifanie e avete capito anche il motivo per cui si intitola così, perché la storia di Massimo ci racconta davvero di un'apparizione, di una visione vera e propria, è quello che vedono lui e il suo amico mentre sono in quella tenda, aprono e finalmente accade quello che nessuno si aspettava e sembra davvero un'epifania, forse su quella passeggiata in montagna, ma in qualche modo forse anche sulla vita, chi lo sa, magari ce lo dice direttamente Massimo. Pronto, ciao Massimo, buongiorno. Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Allora Massimo, la prima notizia che tu devi darci è, tu in questo momento ti trovi in Pakistan, giusto? A Karachi. Mi trovo a Karachi, sommerso da un monsone spaventoso, è 3 giorni che piove e sembra di essere a Venezia, senza avere il canale grande o cose del genere, però sì, è da 3 anni che insomma Karachi è casa mia, diciamo. E per quale motivo, Massimo, da 3 anni vivi a Karachi? Dunque, io insegno in una università qua a Karachi, appunto, si chiama Habib University, è stata fondata circa 6 anni fa. Prima di trasferirmi qua a Karachi ho vissuto prima a Londra, poi in Siria, poi negli Stati Uniti, poi in Giordania e poi sono finito qua. Tra l'altro scopro ora che Karachi ha 15 milioni di abitanti, cioè è una megalopoli assoluta. Ma magari fossero 15, ma in realtà quali sono le statistiche ufficiali? Nessuno crede che sia meno di 25. Ah, wow. Ed è una città talmente grossa, dite, la cosa, cioè, da parte a parte sono 60-70 km di città. Per le nostre dimensioni, certo. È un po' fuori portata, ecco. E come si vive a Karachi? Come si dice? Diciamo che è un paese, che è un posto molto, molto diverso dall'Italia, mettiamola così, l'ho preso un po' alla larga, però ecco, ci sono tante cose che quando torno in Italia per i miei brevi soggiorni, cioè, apprezzo in maniera, cioè ci sono interi settori di Karachi dove io chiaramente non mi avventuro, sono praticamente tutti questi bidonville, gli slum che stanno attorno alla città, che so, sono, diciamo, casa per milioni di persone, e questi poveri tendono poi comunque a muoversi attraverso la città, per cui li vedi, ecco. Chiarissimo. Senti, veniamo alla storia. Innanzitutto, Stefano, come sta? Vi sentite sempre? Sì, no, Stefano ci sente sempre, hai voglia. Tra l'altro l'ultimo weekend che ho fatto in Italia eravamo sulle chiese a farci una pernata sulla griglia, per cui sì, siamo sempre in contatto. Ok, per capire, quello che avete fatto è stato un azzardo oppure era no, più o meno tutto in sicurezza? Era molto in sicurezza, nel senso che comunque erano appunto 15 giorni tra le montagne del Karakorum / Himalaya. Avevamo contattato un'agenzia che si occupa di queste cose, che sta di base Islamabad, okay. Capitale a nord. Avevamo due guide che ci hanno detto praticamente tutto quello che si poteva o non si poteva fare. Abbiamo i portatori. Chiaramente c'è sempre un elemento, non voglio dire di rischio, però insomma... Sì, certo, insomma c'è una componente di attenzione da tenere alta un po' come sempre. Senti, innanzitutto grazie per la foto che ci hai mandato di quella visione che ci racconti, e tra l'altro invito gli ascoltatori ad andare a vederla, anche perché ce l'hai raccontata con così tanto trasporto che vederla da una parte un po' toglie la poesia, dall'altra invece completa il quadro. Andate sui nostri profili di Linee d'Ombra o su Twitter o su Facebook e vedete l'immagine che hanno visto Stefano e Massimo quella mattina. Che cosa hai pensato quando lui ti ha detto tu non hai idea di cosa c'è lì fuori? Cioè, conosco la montagna, so che dopo una serata di brutto tempo è facile che magari la mattina ci sia bel tempo. Perché ho detto, sì, magari si è chiarito, magari c'è un bel panorama, magari vediamo sto benedetto lago dopo tre giorni di trek che uno vorrebbe anche. L'impatto visivo con montagne tutto intorno a te, quando stai già su un altopiano a quasi 5.000 metri, è una cosa che veramente, quando dico mozzafiato, non tanto per l'ossigeno che è un po' più scarso a quelle quote, ma proprio mi ha lasciato completamente senza parole. E continuavo a vedere Stefano mentre si rollava sta sigaretta, continuava a sorridermi senza dire una parola, e dicendo hai visto? Ed eravamo lì completamente identici, capito? Da questo siamo stati un po' sopraffatti, ecco, quello sì. Immagino, appunto non avrete lo stesso effetto, ma guardatela la foto che ci ha mandato Massimo sul nostro Facebook di Linee d'Ombra oppure su Twitter. Massimo, io ti terrei ancora tanto, ma purtroppo devo chiudere. Ti ringrazio molto per la storia e anche per la chiacchierata che riguarda il Pakistan e i Karachi. Qualsiasi storia tu abbia voglia di mandarci che riguarda la tua vita lì, noi la prendiamo con molto piacere. Perfetto, lo terrò presente, Matteo. Grazie. Alla prossima, allora. In bocca al lupo per tutto. Alla prossima. Grazie, ciao. Grazie, Massimo. Ciao. I've gotta say I wasted all your time, honey, honey. Where do I go to fall from grace? God put a smile upon your face, yeah. Now Epifanie si intitola la puntata di oggi, e dopo la splendida storia di Massimo e del suo amico Stefano che arrampicano in cima alle vette che raggiungono il cielo del nostro pianeta, andiamo da un'altra parte. Tra pochissimo, dopo le borse in diretta, raccontiamo una storia che arriva dal cuore dell'Africa, qui a Linee d'Ombra. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linee d'Ombra. Quando sentì la canna del Kalashnikov premergli contro la schiena, Eric Eugene Murangawa smise di pensare. Era sdraiato, a faccia in giù, nella sua casa di Kigali, in Ruanda. Non era la prima volta che un soldato minacciava di ucciderlo e non sarebbe stata l'ultima. Erano i giorni del genocidio dei Tutsi in Ruanda, era il 1994. In quel momento Murangawa aveva 19 anni ed era soprannominato Toto, il giovane in lingua swahili. Non pensava alla sua famiglia, non pensava al suo coinquilino che stava vivendo lo stesso trauma ad appena un metro di distanza. Non pensava nemmeno all'amato Rayon Sports Football Club, la squadra di calcio più famosa del Ruanda, in cui giocava come portiere. I suoi pensieri si erano fermati, in attesa dello sparo. Non pensavo a niente, racconta 26 anni dopo, dalla riva sud del Tamigi a Londra, dove oggi vive. La mente si blocca completamente, perdi la tua umanità. In questa puntata di Linee d'Ombra che si intitola Epifanie, la seconda storia di oggi è la sua. Non ero spaventato, anche se sapevo che stavo per morire. Sapevo cosa stava accadendo, ma non la definirei consapevolezza, è un riflesso automatico e vacuo. Non provi proprio niente. Quando tre combattenti della milizia paramilitare Hutu fece irruzione nella sua casa con la scusa di cercare delle armi nascoste da qualche parte, intorno a lui si scatenò il caos. Ma come guidato da una forza divina, per terra cadde anche un album di fotografie che si aprì su alcune immagini di Murangawa con la maglia del Rayon Sports. Il soldato che reggeva l'arma chiese spiegazioni. «Non mi mentire o ti sparo. Sono un grande tifoso del Rayon. Conosco tutti i giocatori della squadra, ti conviene dirmi la verità». Murangawa intravide una possibilità di salvezza. «Sono io. Se conosci la squadra, sai chi sono», rispose. Era come se avesse premuto un interruttore. Tutta la rabbia, tutto l'odio e le minacce che avevano deformato il volto di quell'uomo, trasformandolo in un assassino, scomparvero. Improvvisamente il soldato sorrise e aiutò Murangawa a rialzarsi, sedendosi accanto a lui sul divano. Ordinò ai compagni di uscire dalla stanza, voleva parlare del suo sport preferito con uno dei suoi idoli. «È stato incredibile», racconta Murangawa, ancora incredulo dopo tutti questi anni. «Mi ero rassegnato alla morte e poi quel soldato mi ha detto che era un tifoso. Abbiamo rievocato alcune famose vittorie e alcune parate spettacolari che avevo fatto. Se n'è andato senza farci del male, dandoci dei consigli su come evitare guai in futuro. Non c'è dubbio, il calcio mi ha salvato la vita». Nato nell'est del Ruanda, Murangawa è da sempre un tifoso del Rayon Sports. La squadra fu fondata a Nyanza, tradizionale sede della monarchia ruandese nel sud del paese, e aveva radici profonde, con una tifoseria che andava al di là dei confini geografici e sociali. «Il Rayon univa tutti i ruandesi», spiega. «Non importava da dove venivi o a quale etnia appartenessi, è sempre stato qualcosa di speciale». Dopo l'indipendenza, nel 1962, il centro del potere si trasferì a Kigali e sia Rayon Sports sia vari cittadini, tra i quali la famiglia di Murangawa, seguirono lo stesso cammino. La sua casa si trovava vicino al campo d'allenamento del club e Murangawa passava la maggior parte delle giornate dietro la porta a sognare. Studiava ogni movimento del portiere, smetteva di fissarlo solo quando andava a recuperare i palloni che finivano fuori dal campo. Un giorno, nel 1989, un portiere di riserva non si presentò all'allenamento e chiesero a Murangawa, che era un ragazzo alto, di sostituirlo. Aveva 16 anni e dimostrò un talento innato. Mesi dopo esordì in prima squadra e cominciò a vivere il suo sogno. Ma sotto i suoi piedi si avvertivano le prime scosse di terremoto, fino alla metà del Settecento, quando i colonizzatori tedeschi e belgi decisero di confondere le acque, i ruandesi erano genericamente divisi in due classi sociali principali. I Tutsi possedevano terreni e bestiame e formavano l'élite, mentre la maggioranza Hutu coltivava la terra. Questa separazione arbitraria venne istituzionalizzata dai padroni europei, che favorirono il potere dei Tutsi. Durante il governo autoritario del presidente Habyarimana, questa divisione diventò esplosiva e fu anche alimentata dalla radio e dalla televisione, un'emittente sostenuta dal governo che faceva propaganda contro i Tutsi. Nell'ottobre del 1990, alcuni esuli ruandesi che vivevano in Uganda si unirono al fronte patriottico ruandese a guida Tutsi e oltrepassarono in massa il confine. Fu l'inizio del conflitto. Tutti i Tutsi cominciarono a essere discriminati, perfino quelli che non c'entravano niente con il conflitto furono etichettati come nemici dello Stato. Le aggressioni in strada diventarono la norma. Gli omicidi politici non facevano praticamente più notizia. Anche il calcio inevitabilmente si trovò incastrato negli ingranaggi della storia. Lo spirito inclusivo del Rayon Sports diventò un pretesto per attaccare la squadra. Alcuni avversari lo consideravano un club Tutsi e trattavano i suoi tifosi e giocatori con disprezzo. I componenti del consiglio d'amministrazione della squadra furono arrestati e interrogati, alcuni politici senza scrupoli ne approfittarono per accumulare potere. All'epoca i tifosi stavano proprio accanto al portiere, potevano toccarti, racconta Murangawa. Li guardavo negli occhi quando mi lanciavano insulti e minacce di morte. Le partite peggiori erano quelle contro le squadre legate all'esercito. In questi casi era impossibile vincere. Gli arbitri erano intimoriti e le nostre proteste cadevano nel vuoto, ma c'era ancora la speranza che il massacro potesse essere in qualche modo sventato. Il 6 marzo del 94, un mese prima dell'inizio del genocidio, il Rayon Sports ospitò la squadra sudanese dell'Al Hilal per una partita della Coppa delle Coppe Africana. Sugli spalti c'erano 30.000 spettatori, neanche un posto vuoto. Grazie a una brillante prestazione di cui si parla ancora oggi, Munangawa e i suoi compagni di squadra vinsero 4-1. Alla parata che ci fu dopo la partita, soldati, politici e cittadini comuni festeggiarono senza divisioni. Perfino gli avversari politici, invidiosi di come il Rayon aveva conquistato i tifosi, si unirono alle celebrazioni, organizzando un ricevimento in onore della squadra, trasmesso dalla TV di Stato. Cercarono di fare passare il nostro trionfo come un loro successo, racconta Murungawa. La cosa mi infastidì. Calcio e politica sono sempre stati legati in Ruanda, ma era triste vedere il nostro risultato sporcato dalla politica. Nonostante tutto, fu una sensazione incredibile vedere il paese unito per quel breve momento. Un mese dopo, il 6 aprile, alle 8 di sera, l'aereo su cui viaggiava il tiranno a Abia Rimana fu colpito da un missile terra-aria nei cieli della capitale. Il presidente morì. Murungawa ebbe la notizia solo il giorno dopo. Ero totalmente intontito, racconta. Ero felice che quel dittatore fosse morto, ma sapevo a chi sarebbe stata data la colpa. Sapevo che la catastrofe era imminente. Poche ore dopo Murungawa era a terra con la faccia rivolta verso il tappeto, picchiato da alcuni sconosciuti che avevano fatto irruzione a casa sua. Aspettava lo sparo, incapace di pensare, quando l'album fotografico cadde a terra. Credo nel destino, racconta. L'album avrebbe potuto aprirsi su una pagina diversa. Il soldato avrebbe potuto essere tifoso di un'altra squadra. Ogni cosa accade per un motivo. Quel momento ha sottolineato il potere dello sport e la sua capacità di influenzare le persone. Quella persona malvagia si è trasformata grazie al rapporto speciale che aveva con me e al suo amore per il Rayon. Murangawa convinse i soldati che anche il suo coinquilino, Atanase, giocava per il Rayon Sports, tra le riserve. Ma c'erano altre vite da salvare. Implorò i soldati di non uccidere i suoi vicini, una donna e tre bambini. L'odissea di Murungawa nei 100 giorni successivi sembra un copione di Hollywood. Si rifugiò a casa di un compagno di squadra, un Hutu, che come tutti gli Hutu era stato convinto dalla propaganda a diffidare dei Tutsi. Quindi Murungawa sapeva che bussando alla sua porta rischiava grosso. In quei giorni ero sempre preoccupato, racconta. Avere paura dei miei concittadini diventò una cosa normale, ma non era facile da accettare. Era come portare costantemente un peso. Ogni persona che incontravi poteva ucciderti. È stato un trauma collettivo. Mentre i giorni si trasformavano in settimane, Murangawa continuava a stare nascosto. In un'occasione rischiò di perdere la vita quando alcuni soldati lo sorpresero nel suo nascondiglio e lo portarono via. Solo un riscatto, pagato dopo i disperati appelli del cugino, un soldato del regime che aveva disertato, gli permise un'altra volta di scamparla. Vorresti sputarmi in faccia? Scusi, colonnello? Siete immondizia. Per noi siete immondizia. Per noi chi? L'Occidente, le superpotenze, tutto quello in cui credi, Paul. Per loro siete immondizia, siete sterco. Non avete valore. Temo di non capire quello che sta dicendo, signore. Andiamo, non mi prendere per il culo, Paul. Sei il più sveglio qui dentro. Te li giostri tutti quanti come vuoi. Potrebbe essere il tuo questo hotel, se non fosse per una cosa. Sei nero. Non sei neanche un negro. Sei un africano. non resteranno, Paul. Non fermeranno la carneficina. Quando la situazione diventò insostenibile, Morungawa fu costretto a spostarsi di nuovo, aiutato dal fatto di essere un calciatore del Rayon Sports. Dopo settimane finì in un centro di smistamento della Croce Rossa Internazionale, dove finse di essere un impiegato dell'UNICEF e lo lasciarono entrare. Quando tutto finì, un numero incalcolabile di persone aveva perso la vita. Il conteggio iniziale dei morti fu di 800.000 persone, ma ogni anno sarebbero stati scoperti nuovi resti umani e nuove fosse comuni. La guerra civile finì ufficialmente nel 94 e lentamente i ruandesi tornarono alle loro vite di prima. Il giorno in cui indossai di nuovo i miei guanti da portiere del Rayon Sports fu uno dei più belli della mia vita, racconta Morungawa, che quell'anno debuttò anche nella nazionale maggiore. Giocare nello stadio nazionale e portare la bandiera del mio paese sul petto è stata un'emozione indescrivibile. Ho pensato alle persone che non c'erano più con noi. Sentivo di avere tantissima responsabilità in quel momento. Avvertivo il grande privilegio di essere lì e mi rendevo conto di poter svolgere un ruolo che andava oltre lo stare tra quei due pali. Rwanda, Rwanda, yeah, yeah. Rwanda, Rwanda, they said many a call, a few were chosen, but I wish some wasn't chosen for the blood spilling of Rwanda, yeah. They said me shocky, shocking up in they go, thrown in the fire but you never get burned, but I wish some didn't get burned in Rwanda, yeah. They said the man is judged according to his works. So tell me, Africa, what's your worth? There's no money, no diamonds, no fortunes on this planet that can replace Rwanda. Rwanda, Rwanda. These are the cries of the children. La storia che vi abbiamo appena raccontato l'abbiamo letta su un magazine che si chiama New Frame, newframe.com, e racconta proprio la storia di Eric Eugene Morungawa e di come di fatto il calcio lo abbia letteralmente salvato grazie a quell'epifania. Una puntata che si intitola così, si intitola Epifanie, grazie a quell'epifania che accade per caso attraverso un album che si apre proprio nella pagina in cui c'è una fotografia che lo ritrae come calciatore di una squadra di cui quel militare che lo sta per uccidere è anche lui a sua volta tifoso. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e tra pochissimo torniamo a raccontare la nostra storia seriale. Linee d'ombra. Prima di ricontinuare con la nostra storia seriale, quella che vi stiamo raccontando da lunedì, che è la storia di Antonio Cocco, detto Tony, questo giovane ragazzo che lascia la propria famiglia per una banalità negli anni 50, decide di scappare in Francia e si ritrova nella legione straniera. Ecco, prima di continuare a raccontarvi questa storia, voglio anche rilanciare una piccola cosa nuova che vogliamo fare quest'anno qui a Linee d'Ombra. Oltre alle storie che ci mandate e che noi usiamo come cuore del programma, no? Le mie è sempre quella. Linee d'ombra @radio24.it, quest'anno abbiamo deciso di provare a raccontare anche in un altro modo, attraverso la vostra voce e quindi attraverso degli audio WhatsApp. Che cosa vi chiediamo di raccontare lì? Di raccontarci la linea d'ombra che state attraversando in questo momento preciso della vostra vita. Sono proprio due modi e due linee d'ombra diverse. Una è quella raccontata tramite il testo, tramite lo scritto, quindi che ci arriva via mail, è una linea d'ombra che avete già attraversato, che avete vissuto e quindi con cui avete, come dire, un rapporto anche temporalmente più maturo. E invece quella che vi chiediamo di raccontare a voce è una linea d'ombra più calda, più addosso, più attaccata alla realtà, per cui magari non si ha il tempo, il modo o la lucidità per scriverla, ma invece attraverso un messaggio vocale, audio, nel vostro telefono avete voglia di dirci di quel lavoro che state lasciando, di quella storia d'amore che si sta trasformando in altro, o

che aveva sicuramente di conoscere il mondo, e da, sa perché era un veneziano, perché comunque, allora io penso che sicuramente lui è andato in Francia per trovare un lavoro, e immagino che potesse essere anche un imbarco, siccome è passato giù lì, ha cercato di scendere, passare la Francia da Bardonecchia, forse puntava ad arrivare a Marsiglia. He was in the church yard. My father was in the first part. He came to my bedroom, but I was asleep. And he woke me up again to say, domani continuiamo a raccontare questa storia. Vi ricordo che se avete voglia di trovarla la trovate ovviamente sul nostro sito radio24.it, nella pagina di Linee d'Ombra. Trovate alla fine della settimana anche tutto il mucchietto, le 5 puntate di storia seriale che vi stiamo raccontando qui sulla ridotta Isabella, ma soprattutto sulla storia di Antonio Cocco. Grazie a Mauro Pescio che raccoglie questa storia, grazie alla famiglia Cocco che contribuisce al suo racconto, grazie all'archivio dei diari che ci ha fatto conoscere e ci ha permesso di interpellare la famiglia Cocco, che aveva chiaramente dei rapporti con loro. Grazie a Luca Micheli, a Paolo Corleoni e a Anita Panizza. Noi lasciamo la linea al GR, torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!